esatto, quando viene al bar, tanto qualcuno ci sarà sempre, e glielo chiedo, faccio di... Ti dico, mica, che era quello lì a me? È cattivo, non ti... non c'era di ti male, guardate, è un cane... è stato abituato... Roberto ha messo un pezzo di merda, aveva un pezzo di merda, lo faceva entrare dentro le scuole a uccidere i ragazzi. Poi davanti a tutti, tutti affacciati. Miserabile, non sei un coglione, signor Vizia. Ma va bene così. E mica va anche colpa mia, voglio. Basta mettere la musica, il gatto non lo tocca. Guarda, proprio... miserabile, lui è l'ultimo miserabile. Sì, ho fatto un po' di domenico, se no, quanto facciamo a chi? Quanto va a venire un gatto, non decidi di che io ci sono, non ho provato niente, non c'è una parte, c'è solo casino, gli altri bar, non più quello, e ci restacco qua. Tutto spento, tutto spento, vi saluto, buonanotte a tutti, e sono d'accordo, non ho posato neanche un po' prendo. Ci sentiamo domani, vai, vai, vai, vai, ciao Fra, ciao Rob, Antonio, Luca, e chiunque fosse in ascolto su 10, ciao a tutti quanti. Ciao, ci sentiamo, buonanotte. Ciao Cracca, ciao Cracca, buonanotte, alla prossima, basta. Ciao Cra, salutoni, la mangiata per domani. Signori, anche io chiudo perché mi stanno chiudendo gli occhi. Ciao, domani non me ne alzo. Ciao Luca, buonanotte, mangiata per domani. Saltate, batte. E poi Antonio ci rientra, salutatemelo. Ciao. Sono qua, buonanotte a tutti, anche io ne vado. 73 e buona giornata a tutti per domani. Ciao ciao. Ciao, che io ne approfitto, che lui mi trova con la maglia in strada, mi sa con la baracchina, di solito alle 10 sono già a fuoco. Buonanotte a tutti, ciao Walter, ciao Franco, ciao a tutti, ciao ciao, ciao Antonio, buonanotte. Ciao, forse domani ti devo chiamare Luca, dobbiamo parlare. Che numero c'è, non c'è problema qua. Lei va bene. Perché sto pensando di farti andare prima per imparare qualcosa. Almeno a vedere, perché io non devo usare di venire in giro. Potevo andare prima con uno e poi con un altro, vai. Non c'è problema. Come lo sapere, vediamo. Non c'è problema. Quindi domani, se mi ricordo, se mi ricordo ti chiamo. C'è mio fratello che ha due cani corsi, però sono tranquilli, cioè diventano cattivi quando giro il cancello, no? Pesano 80 kg l'uno. Fanno entrare là dentro per essere servito. Ma no, non lo so, no. Qua si stupido a toccare, è un bel grosso il cane, proprio grosso. Un cane grande, grande, grande, grande, non è un cane, non lo so qua, ma si pure che esca, che non esca, poi si pure che, io lo so, comunque è cattivo, credimi, è cattivo perché io lo temo, non mi conosco, io lo conosco la piccolino quel cane, da quando è nato, però lo temo, lo temo. Sono cani bastardi. Il più grande che ho visto a Sassari ce l'ha già nel provviso. Si chiama Dux questo cane, un pastore all'Andalusia, non ce n'è altro, penso sia l'unico che ci sta bene. E abita in via, in via, non via Provincetta, ma qui vicino. Pesa 90 kg, un leone. Se lo vedi ti spaventi. È enorme, ha paura. È tranquillissimo però, non è un cane risoluto. È più male che un cane così, però alla fine vai a finire, uno fa i confronti, da quei cani ci sia leone, le tigri, e l'ipopotamo, dunque. Il cane non è più bello quando è aggressivo, il cane è bello quando fa la guardia, quando non fa male, e quando morsica che capisce che la gente si torna a rubare o qualcosa del genere. Non sono un cane che guarda niente come padrone. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, però visto che questo cane, forse lo avrò visto, forse l'ho visto, è un cane molto grande, non so che tipo di cane sia, l'ho visto, però sei un cane bravo quello. Questo è Felicia, è ancora più piccolo, ma è cattivo, è quello che va. Va bene. Ci sentiamo domani qua. Ciao, ciao a tutti. Non mi porta mi senti su Sky adesso di nuovo. Ho capito. Se mio nipote su Sky oggi, adesso a questo sto guardando. Sul proprio schermo di casa. Allora, io andrei subito ad Alberto. Alberto, cosa mi direbbe per te succedesse una malattia? Mi sa se ne può. Sarebbe un sogno che si realizza, diciamo. Tu non riesci a arrivare. No, no, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Disastro, mi piace, va bene, mi porto su Sky, adesso lavoro a Milano, mi piaceva fare di prendere la telecamera, se poi intanto su Sardegna 1, videolina. Ho partecipato a questo programma, c'erano 140 persone, 3 mesi fa, ho fatto la selezione, sono rimasto in 6, poi da qui si è fatto 3 mesi di programmi e ha vinto alla finale lunedì scorso. Faccio a Los Angeles, devo andare su un po' a Sky a lavorare. Vuol dire che è bravo, ci hanno preso, vuol dire che è bravo, ma dai la telecamera lì praticamente, cioè la telecamera lavora. Ma che ci demenziali, l'avrei visto a Sardegna 1, ti piace fare questi montaggi, ha fatto il montaggio come Andrea De Filippi, per il video musicale, che ti piace lavorare con la telecamera, producer televisivo è il nome, adesso ce l'avete, ho cambiato il suo guardando. Stavolta l'ho visto, non so, ma usarci, Sardegna 1, sì, poi l'abbiamo visto, ma che Walter fa, Massimo si chiama, no, ad Alberto Sarducci, no, sì, poi l'abbiamo visto, perché ho sempre girato con il televisore, Antenna 1, coso, ma come si chiama, proprio a Sardegna 1, poi poi l'abbiamo visto. Sardegna una volta ho visto uno sketch che è arrivato in Italia, si è spogliato, mutando, si è messo, è stato la doccia lì. È un mancante, se è arrivato bene adesso c'è di nuovo. Adesso su Sardegna 1 non c'è più veramente perché ho comprato uno Sky e lavoro lì. Adesso parte a Los Angeles, domani lo chiamo, mi dice quando va. Ho preso anche un po' di soldi. Quindi tranquillo adesso. Beh, se l'ho preso vuol dire che è bravo, non è che prendo un cuscino qua. Non so, non si può abbiamo visto, ma il biglietto va. Si ha vinto da bravo, non ha studiato neanche il certo cammino, per dire non è un difetto, perché uno che fa quel lavoro e parla l'inglese, però ha vinto su tutti, è micidiato, è passione, vabbè dai ci sentiamo domani, facciamo infatti andare